scoperti noi siamo. Mai si venga delle mura l'assalto. Il trionfar già tardi, la vittoria già stringo. Allarmi, allarmi! Giustissimi dei, Achillar sace si celaron così che rese vane le ricerche di noi. Pulir in breve ambi sapremo ancor, fa che a Cornelia seguì il prigionier, adesso adono l'arbitrio del castigo. Viver tuo dal mio voler dipende, or il comando di Cesare s'adempia. Ma non insulto dell'instabil fortuna, il mio coraggio intrepido risponde. Né si turba giammai, né si confonde. Thank you. usato ancor ha. Ragioniam d'amore. Un mi fe allietarlo più dopo i servirsi. Adorato eroe mio, e vidi appena che l'alma mia di te s'accese. Un nome ragiona nel tuo labbro, fulgora nel tuo cielo, e a forza esige riverenza ed affetto. Accenda dunque le nostre anime amanti sempre un uguale ardor. Ma sì, facciamo dolce il cambio tra noi d'amore e fede. Meco a Roma verrai, che ivi ti voglio innalzare al mio soglio. Come? Vorrai sul Tibro differir le mie nozze? Altari e templi quivi forse non sono. O Cleopatra partirà dall'Egitto di Cesare già sposa, oppure... Ah, dunque in questo giorno al trono ascenderai, mia sposa. Dell'amor mio il frutto coglierò. Vado a rispormi, ma lontano da te, credimi, o bene, sollecita e dolente l'anima mia fedel, pace non sente. Oh! un grotto